prendere, poi sbattere su un muro. Eri piccola, tu eri piccola. Correre, correre, correre lontano, scorgere una musica, ma poi non c'è nessuno. Eri piccola, tu eri piccola. Comunque tu sei più piccola del vento, la più piccola che c'è. Tu eri piccola tesoro, ora sei qui e adesso mi innamoro. Sei più piccola del grano e più piccola che mai. Sei tanto piccola e nel cielo ti perderai. Sai, attenta, correre, correre, correre il destino, piangere, sorridere, star lì come un cretino. Eri piccola, tu eri piccola. Eri piccola, tu eri piccola. Ora sei qui, sei più piccola del naso, la più piccola realtà, la via più piccola del mondo. Sembra così, ma è tanto che cammino. La più piccola parola che una vita pronunciai. Sei tanto piccola che credo mi sfuggirai ed io ti perdo.